E Pomponio non l'hai sentito? Ah no, stavo cercando però cosa? Antonello di Ossilandia. Vedi adesso. Ofra. Sì. Cos'è che stai facendo? No, ho cercato le cose, ma non ho detto. Mi ha detto il sito, qual era? Associazione CB Sassari Nicola Tesla. Nicola è scritto con la K. Sì. Ripeto, è stato appena aperto, quindi non c'è quasi niente. Radio, adesso sto uscendo un attimino più forte, dai. Ma io ti voglio sentire anche ventoso, non così. Per quello che ho speso, questo non è baracchino serio come il vostro, questo è un giocattolo. Perché il mio non è che sia serio, però va bene, dai. E già è serio, dai. Già è serio, non è da 50 euro quanto ha portato questo, dai. Vabbè, 5,50 no? L'ho preso nuovo io, è tutto suo, il microfono suo, cosa credi che c'è un microfono amplificato? L'ho provato ma fischia perché va bene già lui, il microfono suo, il micro suo, è tutto suo. Sì, ma ti ripeto, quello è un apparato, lì c'è un baracchino, lì c'è una scatola. Quanto è piccolo? Non so se è presente i veicolari, quelli che non hanno niente. Questo è un veicolare, non è un da stazione fissa. È da stazione fissa, è un veicolare, è proprio una scatola, è piccolino. Ho capito, è proprio uno da macchina, dai, piccolissimo. Sì, ma da macchina è pure piccolo, perché ad esempio non ha smitter, tant'è vero che il controllo io lo do su un altro apparato che c'è qua, che è lo stesso collegato, che è quello con cui mi ascolto, però realmente non te lo potrei dare con questo, non ha neanche LED, non ha niente, capito? C'ha solamente M, FM e poi canali, e ne ha un bel. Questo qua, dove arriva questo, tu non ci arrivi, però, ripeto, non servono a niente poi alla fine quei canali, perché o c'hai l'antenna adatta oppure non serve a niente. Quella parola non l'accetto, io ci arrivo. Non ci arrivi. Io ho preso. Io ci arrivo se voglio. Aspetta un attimino, Franco. Cosa stai dicendo? Ma io ci arrivo, anche oltre. Non ci arrivate. Non scommettere, guarda. No, ma me l'hai detto anche prima, non so se Antonio ci arrivi, comunque è a 30, capito? 30 e 150. Io te la do anche più alta, se vuoi. Io arrivo per tutto. Ciao, se voglio. Arrivo tutto, non ho problemi. Beh, questo qua, vi ripeto, questo è secondo me a tutt'oggi l'apparato, il baracchino, perché non è un apparato, è un baracchino, che per quanto costa, prezzo, qualità, è il migliore che esista, perché con 60 euro oggi non pigli manco un Alan 100 Plus. L'Alan 100 Plus è quella specie di gaggata, anzi c'è l'Alan 199 che costa 199, che costa più di questo, e non ha neanche l'FM, c'ha 40 canali e basta. Come le prendere quello? No? Cavolo, per comprare l'Alan 100 Plus conviene comprare un altro di queste, come quello che io ho qua, perché a pari prezzo costa quasi lo mattesse, aggiungi qualche cosa in più lo stai prendendo. Poi l'Alan 100 Plus, c'è una cosa brutta che ha l'Alan 100 Plus, è il mic, sembra una scatoletta, a parte che è brutta da vedersi perché è piccolo piccolo, ma poi ha una modulazione, sembra che stai parlando dentro un barattolo. fatto che c'ha lo spinotto a 5 poli, di quelli che non si usano più e tutta un'altra serie di cose. Avanti, Franco. Sì, fa un attimo di bianco, per me che cambia a parà. Metto il portatile, devo essere scobbricciato. Tu dai, fai una chiamata un attimino a Gianni per vedere se c'è. Io un attimino lo stesso in bianco e sto andando a prendermi qualcosa e faccio carica batteria di fronte al baracchino, dai. Facciamo 45 e 45, cioè 5 e il fatto che mi si è rotto, cioè mi si è rotto un altro spinotto del coso, le batterie sono scariche, infatti le sto togliendo e non me l'altro l'ho fatto. Ma niente, allora dai, ma tu è quel portatile stai dicendo? Sì, il portatile, guarda, non mi sento la mano. Quando lei vuole le cose, giustamente si scappa, no? Classico, è un classico. Ciao, conforto, bisogna vedere tutto. No, c'è anche lo spinotto per l'alimentazione, però non ho capito il perché non funziona. Eppure è nuovo, mai usato. Cavolo. Ok, chiedere a che tipo di finale c'ha il tuo Integra? Non sono così tecnico, perché il tuo cos'ha? Abba, questi qua sono i Mosfet, mi stupisce. No, no, no, aspetta, quelli li conosco anch'io che sono ignorante, però ne sono presenti a parlare. Normale, certo. Credo di sì, sì. Ah no, questo qua monta quelli a Mosfet. So che sono più performanti, più resistenti. Abbiamo fatto così, dobbiamo vederlo. Anche quello che c'è con un'altra persona è fatto così. Un attimo, avevo una passa. Ma cosa hai detto? Che non ti ho sentito bene. Ok, va bene, io sto caricando la batteria. Ciao, allora, buonanotte. Buonanotte, alle prossime. Ciao, ciao, ciao. Vai, vai, chi è rimasto? Antonio?